Parte seconda, capitolo 8. Mark, ottobre 1949. Tornando dall'aver effettuato un raschiamento, trovai Mark nella mia camera. La donna aveva perduto sangue a casa per ben 4 giorni prima che il marito si decidesse a portarla all'ospedale. Esangue, gli occhi rovesciati, giaceva svenuta sul tavolo operatorio. Le avevamo fatto una trasfusione senza perdere tempo e alla fine lei era stata in grado di sussurrare qualche parola. Fu quindi con quel senso di soddisfatto benessere che un medico prova spesso, e spesso a buon mercato, che aprì la porta della mia camera e vidi Mark che mi attendeva. Mark non era più entrato nella mia camera dal giorno in cui avevamo parlato di sposarci. Mark, ripetei, un po' spaventata al vederlo così diverso. Così lontano dalla sua solita mite cortesia. Che è accaduto? Devo tornare a Singapore. Sedemmo sul mio letto, voltandoci le spalle, perché sapevamo che se i nostri sguardi si fossero incontrati non saremmo più stati in grado di pensare e di discutere. Ci sono stati pettegolezzi? Non saprei, avrei comunque dovuto andarci in seguito per il mio lavoro. Queste non sono cose che si possono definire per lettera, devo partire. Certamente. Hai cenato? Non aveva mangiato, si sforzò ad ingoiare qualche boccone del cibo che gli portai dalla cucina e beve il caffè mentre gli raccontavo del raschiamento. Non sentivo assolutamente nulla. Di fronte a Mark, tanto sconvolto, ero calma e staccata. Sei schizofrenica, mi dissi. Probabilmente si tratta di una tragedia che ti riguarda da vicino, eppure duri fatica a non sorridere. Anzi, stai già sorridendo. Poi vidi gli occhi di Mark che mi scrutavano, ed un tratto tutto fu buio dentro di me. Mark non era soltanto turbato, bensì infelice. Gli avevano fatto del male e in me non c'era che oscurità. Sempre sarei stata così oscura e spietata di fronte all'infelicità di Mark. Tutte le donne sono così quando si tratta del loro uomo, soltanto a loro è concesso di fargli del male. Amor mio, dissi, non preoccuparti, te ne supplico, doveva accadere. Non facevamo che prendere il tempo a prestito e forse è meglio adesso che domani. Se fossi libero ti sposerei subito, disse Mark, ma sapevo quello che provava. Ma ora ti senti vigliacco, vero? Ora non sei più tanto sicuro di noi perché ti ripugna far del male a qualcuno e sai di doverlo fare, e infatti lo farai. Improvvisamente mi parve che Mark ed io fossimo due attori intenti a recitare una commedia su di un palcoscenico polveroso, tra quinte di cartapesta. Molto dipendeva dalle parole e dai gesti. Si fanno determinati gesti per esprimere determinate intenzioni, ma gli spettatori non conoscono le intenzioni e non se ne curano poiché risultano irrilevanti ai fini della commedia. Quello che importa è l'interpretazione che il pubblico dà ai gesti degli attori, non quello che essi vogliono significare, bensì quello che il pubblico ritiene che significhino. Mark ed io ci trovavamo in preda ad una cecità e a una sordità che rendevano tutto vivo nello spasimo di una malattia che agiva sulla nostra mente e sul nostro corpo, scuotendoci di una passione così evidente che un amico cinese mi aveva detto, nel linguaggio usato dai nostri amanti, voi due vi guardate e il cielo si squarcia e la terra frana in rovina. I nostri amori precedenti non erano state che emozioni superficiali e puerili al confronto della follia che si era abbattuta su di noi e di cui ancora oggi non riesco a parlare. Cerco soltanto di spiegarla, ma non so darle un nome. Tuttavia, ciò che per noi era indicibilmente meraviglioso e divino poteva essere giudicato ben diversamente dagli altri. Per i meschini e i bigotti, il nostro amore era uno scandalo che andava tenuto decorosamente nascosto o una vergognosa dimostrazione di immoralità che doveva essere condannata a voce alta e che ci estrometteva dal mondo delle persone oneste. Per i molti che si occupavano piacevolmente delle faccende altrui intorno al tavolo da bridge, si trattava semplicemente di una euroasiatica che, avendo abbindolato un inglese sposato per ragioni di sicurezza personale, gli stava rovinando la vita. Alcuni miei amici cinesi deploravano che io fossi caduta preda di una simile infatuazione per uno straniero, infatuazione che mi avrebbe impedito di compiere il mio dovere. E Suzanne giudicava certo il nostro amore come una divertente avventura. Quanto agli amici di Mark, non c'era da illudersi sul loro giudizio in merito. Purtroppo non era possibile ignorare i pettegolezzi con un'alzata di spalle. Se un giorno fossimo diventati nuovamente rispettabili, regolarizzando la nostra posizione, i nostri più feroci critici sarebbero probabilmente stati i primi a congratularsi con noi, poiché non vi è nulla che la folla ami di più che trascinarsi in processione dietro a un vincitore. Ma per il momento eravamo vulnerabili e tutti avevano la possibilità di farci del male. Il mio amore, la mia gemma iridescente, la mia cosa dai molti splendori, sarebbe stata imbrattata dalle labbra dei compiacenti e dei giusti, velenosamente attaccato dal pettegolezzo, insozzato da insinuazioni e infangato di moralità, fino a renderci dubbiosi, fino a farci sentire colpevoli e sconfitti. Poco per volta la nostra meravigliosa intesa, più preziosa della conoscenza fisica e più esigente, si sarebbe indebolita e anche noi avremmo rinnegato il repentino esultare del nostro pensiero reciproco, la lunga e dolcissima ondata di piacere alla nostra reciproca presenza fisica. E avremmo provato la vergogna, quella vergogna furtiva e strisciante che offusca lo splendore e la gioia e rende sagaci, attenti, discreti, che cerca l'odore cadaverico del nascondiglio, che rende rassegnati al segreto delle ore rubate di soppiatto. Per compiacere i santocchi, avremmo fatto professione del rispetto dovuto alla morale comune e un giorno anche noi avremmo confessato: oh sì, è stato un errore, ma ora è finito e siamo nuovamente onesti, è come se non fosse mai esistito. E avremmo così rinnegato la visione e il sogno, avremmo rifiutato la cosa dai molti splendori. Non mi sarebbe stato possibile giustificarci con spiegazioni, poiché le spiegazioni non interessano a nessuno. Ne potevo elencare a Mark gli alti motivi del nostro amore. Esistono mai i motivi per quello che sentiamo? Non mi rimaneva da fare se non quello che in quel momento mi sembrava il gesto appropriato della commedia che Mark ed io dovevamo recitare fino alla fine. Non sentivo emozioni, non avrei cercato di dimostrarne. L'emozione è inutile e spesso ingannatrice. Avrei recitato bene, onorevolmente, poiché l'onore è un elemento indispensabile a una buona commedia. Avrei trattato la cosa alla maniera classica cinese, gesti formali, staccati, ieratici, ognuno avente il proprio significato simbolico, ma nient'altro che gesti. In un istante ricordai le formule e la mia mente ritornò ai vecchi libri e ai classici che avevo imparato a memoria. Il maestro disse: Yu, vuoi che ti insegni cos'è la conoscenza? Il riconoscere di sapere una cosa allorché la sai, e il riconoscere di non saperla quando non la sai. Questa è la conoscenza. Ma la mia mente riandava ancora più indietro, al libro dei riti e delle cerimonie. L'uomo e la donna non siedono nella stessa stanza, non appendono le loro vesti sullo stesso gancio, non si passano oggetti da mano a mano. Gli antichi libri prescrivono minutamente, rigidamente, il comportamento dell'uomo in ogni fase della vita, in ogni ora della giornata, fin dal momento del risveglio e persino durante il sonno. La vita è un rito, l'esistenza è un continuo cerimoniale, poiché gli animali sono schiavi dei loro impulsi, ma l'essere umano ha la facoltà di governarsi. E mi chiesi che cosa avrebbe risposto Confucio se lo avessi interpellato rispettosamente, chiedendogli consiglio sul modo migliore di comportarmi? Che cosa mi avrebbe risposto? Non osavo pensarci. Bevi il tuo caffè, amore, dissi con una sollecitudine non priva di una certa impudenza. L'impudenza è l'atteggiamento proprio agli impavidi eroi che preferisco allorché sono minacciati dalla tragedia e dal pericolo. Non era la prima volta che affrontavo la crudeltà e il dolore con una scherzosa risata. Bevi il tuo caffè. Se vuoi, puoi rinunciare a me. In questo momento non mi importa quello che deciderai. Mi basta che tu non te ne vada senza aver mangiato. Mark sorrise, già più calmo. Ero piuttosto sconvolto, ammise semplicemente, ma tu hai saputo calmarmi. Mark era convinto che io avessi il dono di tramutare la sofferenza, di afferrarla e controllarla, strappandole il suo strato superficiale di emozione e rendendola preziosa per noi. Era questa una delle sue illusioni sul mio conto, che non ho mai potuto dissipare. «Fuma un sigaro», proposi. E muovendomi silenziosamente, gli porsi il fiammifero acceso e sedetti per terra, ai suoi piedi, posando la testa contro le sue ginocchia. Sentii le sue dita fra i miei capelli, dapprima quasi distratte, poi coscienti di quello che facevano. Il sigaro era uno di quelli che avevo portato da casa per lui, corto e tozzo, nero e forte. La fascetta portava la scritta Corona de Extra, e ancora una volta Mark rise, leggendo ad alta voce lo strano nome. «Davvero non ti importerebbe se lasciassi stare le cose come sono e rinunciassi a te?» mi chiese. «Dici sempre che da parte mia si tratta soltanto di infatuazione e che tu non sai cosa sia l'amore?» Sorridendo parai la botta. «Alla tua età dovresti sapere che non esistono motivi che siano del tutto puri, sentimenti che non siano misti, pensieri assolutamente cristallini. Da quella massa di contraddizioni che noi siamo, creiamo immagini semplificate a uso della folla. E perché i nostri amici possano identificarci, chiamiamo questi travestimenti di noi stessi con nomi qualsiasi che non hanno significato, poiché i loro significati sono innumerevoli. Quindi non posso risponderti se mi importerebbe o meno che tu mi lasciassi. Credo che la mia vanità ne soffrirebbe, ne sarei umiliata. Non ci siamo mai chiesti... «Mi ami?» disse Mark, indugiando con le dita fra i miei capelli. «Che cosa sciocca da chiedere, vero? In fondo che cos'è l'amore? Il fatto che io ti ami e che voglia vivere tutta la mia vita con te mi rende sufficientemente felice, ma so che non... che con te è sempre o tutto o nulla. So che posso elevarmi ai tuoi occhi o crollare, miseramente. A volte ne ho quasi paura e vorrei rifugiarmi ancora nella mia neutralità, in quella vita convenzionale che significa così poco e sembra più sicura. Non lo so se ti amo, gli dissi, perché non so cosa significhi la parola amore. Se fossimo liberi di sposarci ora, credo che esiterei. Sebbene io anelli di vederti e di sentirti, sebbene io ti ritrovi in ogni cosa che tocco, l'aspirazione del mio sentimento per te non è quella di diventare Mrs. Elliot. Certo, voglio aver cura di te, prepararti la colazione, pulirti le scarpe e generare i tuoi figli, ma c'è qualcos'altro, c'è in me qualcosa che vuole, non so, forse la Cina. Non so spiegarlo. Se sapessi di farti del male, disse Mark, ti lascerei subito. Non vorrei assolutamente impedirti di essere te stessa. «Beh, andandotene, come potresti disfare quello che mi hai già fatto?» ribattei. «Per ricordarti a me, la tua assenza è ancora più potente della tua stessa presenza.» Ci guardammo e scoppiamo a ridere, irresistibilmente allegri al pensiero della nostra solennità. «Per quanti guai ci dia la vita», disse Mark asciugandosi gli occhi, «non posso rimanere triste a lungo quando sono con te. Mi sento subito meglio, creandomi... Il divino deve aver dimenticato fuori qualche pezzetto, perché non risento a lungo né del dolore né dell'ingiustizia.» E su queste parole scherzose ci lasciammo. «Non dimenticare che domani dobbiamo andare a far incidere il tuo sigillo», gli dissi. «Quando parti?» «La settimana prossima. Come sei dolce», soggiunse. «Consapevole e pure tranquilla. Mi piace tanto.» Quando se ne fu andato, accesi una sigaretta. «Dolce? Io dolce? Sì, dolce come una pantera nera, attenta e spietata col suo passo vellutato.» Fumando, pensavo. E quando finalmente dormii, il mio sonno fu pesante. Sapevo cosa dovevo fare. La mattina dopo, al risveglio, il dolore che mi era stato lontano durante la notte si destò con me, enorme e clamoroso. E sebbene capissi finalmente quello che Mark stava passando, feci ogni cosa come avevo disposto. «Qualunque cosa tu decida, io sarò soddisfatta, poiché di nulla mi importa, se non dell'affermazione di te stesso. Tua la decisione, tua la volontà. Le circostanze esteriori non contano. Soltanto rinnegando te stesso potrai farmi del male.» Parole dignitose, nobili accenti, Confucio in uno scenario moderno. Movimenti tranquilli e armoniosi, cerimoniale da libro dei riti, commedia cinese civilizzata. Silenzio. Ho chinato il capo quando egli ha parlato di lasciarmi perché a suo modo anche lui ha agito onorabilmente. Sapeva quello che avrebbe dovuto affrontare, sapeva quello che avrebbe dovuto perdere. Non ho dimostrato irriverente dolore, ho chinato il capo. Ed egli ha visto i miei capelli tanto neri e lunghi e tutta la mia sottomissione alla sua volontà. E chi potrebbe prevalere su tanta umiltà? Per 5 giorni di quella settimana fui serena e tranquilla come acqua senza forma che scorra piano nella notte. Tenerezza, passività. Non sapevo che significasse far valere i propri diritti. Fui una voce che citava versi e lo faceva ridere, una mano docile che la sua stringeva per andare a spiare le schermaglie delle farfalle in amore sul sentiero degli amanti. Un cantastorie di antiche leggende di amore e dolce dolore e disperazione fra i tamburi della morte. Fui una compagna che traduceva i giornali cinesi, dipanando il significato delle elaborate frasi di propaganda, una spietata semplificatrice di ogni pomposità. Una vagabonda notturna al suo fianco che, come lui, evitava di disturbare i corpi dei dormienti che giacevano sulle stuoie sotto i portici coperti di Hong Kong, spensierata, gaia con gli amici, sempre pronta al riso. Credo che tu saresti felice ovunque, sei tanto allegra. E quando egli parlava di quello che ci aspettava, cercando di spiegarmi perché non poteva rinunciare a me, io lo facevo ragionare. Non ho nulla per poterti trattenere, gli dicevo, nulla. L'amore è forse una ragione sufficiente per infliggere dolore e sofferenze? Affermavo che era stata Hong Kong a unirci. La sua bellezza, l'occasione fortuita, il caso. Se ci fossimo conosciuti a Londra qualche anno fa non ci saremmo innamorati. E a Chongqing non avremmo nemmeno avuto il coraggio di uscire insieme. Ogni mia parola era contro la nostra follia. Ogni mio gesto una completa sottomissione alla sua volontà. Lo misi anche in guardia su quello che la gente avrebbe detto e pensato di me. Sono euroasiatica e ciò significa semplicemente che mia madre era europea e mio padre cinese. In Cina mi si considera come cinese, ma gli inglesi delle colonie la pensano diversamente. Per gli inglesi delle colonie e delle concessioni è una vergogna e un'inferiorità essere euroasiatici, forse perché ve ne sono tanti in India. Si scaglieranno contro la parola. E non mi considereranno nemmeno come individuo, potrei danneggiare la tua carriera. Ma l'inglese è il popolo più bastardo del mondo, ribatté Mark. Solo gli sciocchi possono pensare così, Su Yen. Sapendo che amava scalare le montagne, non mancai di fargli notare tutti gli ostacoli alla nostra felicità. Non si può dire che tu cerchi di influenzarmi, egli osservava. Non parli mai in tuo favore, non esigi promesse. Così recitavo. Fidando sul suo senso dell'onore, e così, prima ancora di me, egli seppe che l'amavo, benché io mi rifiutassi di pronunciare la parola, poiché, sebbene io fossi consapevole di ogni gesto nella commedia, recitavo con tutta me stessa, incurante del pericolo e offrendomi interamente. In tal modo egli acquistò fiducia in se stesso, ancorato alla certezza della sua volontà, imparò a sentire il dolore che fino alla fine doveva esserci compagno di ogni gioia. E a tenerlo con sé nei suoi pensieri, come nei suoi pensieri teneva sempre la gioia che io ero per lui. La quinta notte, alla casa della saggezza, mi accomiatai da lui. Addio, non ci vedremo più fino al tuo ritorno, se ritornerai. Ma perché? Perché non sarebbe leale assorbirti fino all'ultimo momento. Significherebbe influenzarti e tu invece devi rimanere solo. E me ne andai, sacrificando 2 intere giornate della sua presenza e sapendo che non mi avrebbe seguita per protestare. La sera prima della sua partenza, alle 9, mi telefonò, dicendo che voleva vedermi. Ti ho già salutato 2 giorni fa. Voglio vederti. E perché? La mia stessa brutalità mi faceva male. Barcollai lievemente. Perché lo voglio? La sua voce era ferma e tranquilla e compresi che avrei dovuto cedere. Stasera sono impegnata, mentì. Vado all'ostello religioso a trovare Liu Sico. Sarò da te tra 10 minuti e ti accompagnerò in taxi dalla tua amica. Dietro 10 minuti per vestirmi, per darmi un po' di rossetto. Faceva un caldo soffocante e pioveva a dirotto. Salì nel taxi e diedi l'indirizzo. Ostello religioso. «Mi dispiace di averti costretta», disse Mark, «ma volevo vederti». «A che serve? A che serve?» «A nulla. Mi sono chiesto se da domani la mia vita sarà come il canto del dolore infinito, perché anch'io vedo le tue sopracciglia nella curva di ogni foglia e odo in me la tua voce. Ti sento nel vento e nella luna, la notte e la tua capigliatura e il giorno il tuo riso. Per me è lo stesso, non vi è istante in cui tu non sia con me, quando mi sveglio, mangio, cammino, lavoro, sì, anche quando stiamo operando, sempre, sempre tu sei con me, fino a farmi desiderare di morire sotto il peso di questo bisogno di te, sono sempre fra le tue mani, sempre. Ho tanto imparato stando con te, tanto e su tante cose, ho vissuto, non sapevo che l'amore fosse così. Tu solo puoi sapere quello che hai fatto di me. Mi hai resa tanto tenera, tanto vulnerabile. Quando avrai finito con me, io non sarò più buona a nulla. Parlavamo, racchiusi nell'oscurità del taxi in corsa, e le nostre voci non erano che un ansioso sussurro. Perché non hai voluto vedermi queste ultime 2 sere, quando abbiamo tanto poco tempo per noi? Perché volevo abituarmi alla tua lontananza. Tu sei venuto perché sei più forte di me. Il taxi si fermò. Mark scese, aprì l'ombrello di carta cerata cinese e lo tenne fermo sopra la mia testa. «Potrei anche non tornare a te, ci hai pensato?» «Sì, ci ho pensato». «Allora, addio», egli disse. E io salì gli scalini che portavano alla porta sbarrata dell'ostello. Non mi voltai, ma udii ugualmente il suo taxi che si allontanava. Non avevo mai immaginato che il rumore di un motore potesse fare tanto male. Giorni senza Mark, macchia di dolore nell'ottobre che ancora durava in me, bruciatura di sigaretta nel mantello multicolore dell'autunno. Amo lo sguardo della luna, la sgargiante luce del sole sulle navi, l'argenteo luccicare della pioggia tra le foglie, ma non ricordo di aver mai visto né sentito tutte queste cose in quei giorni senza Mark. Il tempo era un vuoto, uno squarcio nella fitta e luminosa rete di ricordi nella quale avvolgevo la mia consapevolezza di Mark. Il tempo non era mai mio, bensì informazione amorfa, arido prolungarsi di parole e di atteggiamento, oscurità del cuore, senza palpito. Giorni senza il canto del mare, senza il luccichio di un'ala di libellula, senza la gloria pezzata di un albo o di un tramonto che incidesse nel vivo autunno che gelosamente proteggevo dalla morte. Incalcolabili, sconosciuti giorni senza Mark. Maya Wong ed io giacevamo sull'erba calda di fronte all'ospedale. Un palmizio ergeva dietro di noi la sua spuria solitudine e la sua scorza di lucertola morta. Maya era raffreddata e tossiva. «Devi curarti, Maya, sei dimagrita». «Quando tornerà?» chiese Maya. Ella non poteva sopportare l'idea che io mi accorgessi dei suoi numerosi raffreddori. Aveva gli occhi cerchiati dalla stanchezza. «Non lo so. Tornerà. Non mi aspetto nulla. Non posso che attendere per vedere quello che accadrà e cercare di non pensarci troppo. Spesso mi chiedo perché desideri così fortemente un uomo tanto diverso da me? Perché mai non ho scelto una persona più facilmente disponibile, uno scapolo inglese, giovane e inoffensivo? Con l'accento strascicato. E l'automobile, un po' tardo ma onesto, come l'amico di Diana. Oppure un cinese, nordico e corpulento, facile alle grasse risate, e con una certa dose di umorismo accantonata in anni di povertà? Perché solo quest'uomo può toccarmi e nessun altro? Forse perché è nato libero e nemmeno tu lo puoi mettere in gabbia. È semplice e nessuno può ingannarlo, nemmeno tu. Con abilità e competenza tu stai tessendo una fitta tela di ragno, ma alla fine la sua semplicità avrà il sopravvento su di te. Pochi sono nati così e lui non se ne rende conto, non si conosce bene, vero? Non si conosce. Ma sta imparando, sta scoprendo molte cose. Forse è più importante dell'amore, non so. Anche tu stai scoprendo molte cose e non puoi fermarti. Non devi mai avere paura. Per tutta la strada. Quanto sei saggia, Maya! Esclamai, tuffando il viso nell'erba e sentendo improvvisamente il profumo della terra matura d'autunno. Maya ed io non eravamo che zolle scaldate dal sole, prementi contro l'erba sotto l'azzurra volontà del cielo. Quando l'uomo soffre, il suo corpo cerca la terra, dice il libro dei riti. Penso che il cielo sia ingiusto e abbia destinato Mark e me a una grande tristezza, poiché ora so finalmente cosa sia la forza d'animo. Sei puerile, Suyen, mi rispose Maya. Sotto al cielo non esiste né giustizia né ingiustizia, e la vita è sempre triste, allorché ci si indugia a meditarvi. I nostri antichi poeti amavano la dolcezza e l'amarezza della sofferenza, poiché l'eternità della bellezza è dovuta alla transitorietà delle sue creature. Non puoi far altro che attendere, senza bramosia del futuro, reggendo il presente senza chiudere il pugno, resistendo alla cupidigia di felicità, lasciando che il destino si adempia. Lui deciderà e tu accetterai, e agirà giustamente, non temere, perché l'amore non può sbagliare. Suzanne, sei mai stata innamorata, veramente innamorata? Suzanne mi guardò, la bocca nascosta dal pezzo di torta che stava addentando. Nel suo sguardo candido e sagace vidi che sapeva, le segretarie sanno sempre tutto. Segretarie e impiegati che parlano cantonese e inglese, che riconoscono la calligrafia sulle buste che passano loro fra le mani, che ricordano le voci al telefono, che sanno ricucire insieme i frammenti di conversazioni udite per caso con i minutissimi punti delle allusioni e dei pezzetti di lettere dimenticati nel cestino della carta straccia. Sì, Suzanne sapeva. Moltissime volte, mi rispose, ma mai come questa volta. E tu? Pochissime volte e mai come questa volta, non capisco. Per me l'amore di oggi è sempre più grande di quello di ieri. E sempre mi illudo che sia l'ultimo, disse Suzanne. Per me non ci sarà mai nessun altro, dichiarai convinta. L'amore, essendo il tema preferito di Suzanne, ella continuò. Io non faccio che innamorarmi e disamorarmi. A confronto di Shanghai, così allegra, Hong Kong mi è sembrata sulle prime terribilmente noiosa e provinciale. Tutto si chiude così presto. Ma entro 2 soli mesi mi son fatta un amico e ora Hong Kong mi piace molto. Il mio amico del momento è un tesoro. Hai intenzione di sposarlo? Oh no! La risata argentina di Suzanne parve spargersi a cerchi concentrici sulla bianca tovaglia da tè. È sposato ed è anche un pezzo piuttosto grosso. Dobbiamo agire con discrezione. Sai bene come sono gli inglesi. Qualunque cosa è lecita purché la si faccia di nascosto, senza dare scandalo. Ti potrei raccontare molte cose che ti farebbero orrore sul conto delle signore per bene di Hong Kong, mio piccolo pulcino, soggiunse con aria materna. Ma sei tanto ingenua che mi vien quasi da piangere quando ti guardo. È pericoloso, sai? Dovrai deciderti a crescere se non vuoi soffrire. Non puoi continuare a idealizzare l'amore in eterno. Non lo idealizzo, Suzanne, ma odio l'ipocrisia. Tu no? No, rispose Suzanne con aria meditabonda. La vita è fatta così. Vedi quella bionda laggiù in compagnia di 2 uomini? Uno è il marito e l'altro è l'amico. All'amico riserva il martedì e il giovedì. È una situazione molto come il fo e nessuno ne soffre. Finché hai l'aria rispettabile e non ti fai pescare, puoi permetterti tutto quello che vuoi. Sarebbe un guaio per il mio amico se si venisse a sapere della nostra relazione, ma e lui dice che gli ho tolto il gusto di andare con altre donne e che non amerà mai nessun'altra. Le mie dita si irrigidirono intorno al bicchiere di Coca-Cola, ricordando quelle stesse parole sulla bocca di Mark, parole che fino a quel momento erano state soltanto mie e che nessun'altra donna aveva mai udito. Chissà se il prudente pezzo grosso di Suzanne le stringeva le mani nel buio. Chissà se fumava la pipa, stringendola delicatamente fra le dita, come Mark, e le parlava a bassa voce, tenero e scherzoso al tempo stesso. Ma Suzanne non aveva ancora finito di strappare brandelli del mantello delle mie illusioni. È molto bello e un poco sentimentale. Dice che si sente rimescolare tutto quando mi guarda. Era un bravo ragazzo prima che lo prendessi in mano io, concluse trionfante. La Coca-Cola sapeva di lisoformio, il veleno a buon mercato preferito dai numerosi aspiranti suicidi di Hong Kong. Improvvisamente mi sentii molto stanca. Beh, suppongo che l'amore sia sempre la stessa cosa, dissi debolmente. Io sono ancora principiante in materia. Suzanne annuì. È soltanto dopo che saprai come e quanto hai amato, dal dolore che proverai quando sarà finito. Quello che dicono non conta. Le parole sono sempre le stesse. Andai a trovare Diana all'ora del tè. Abitava nell'appartamento di Ann Richards, vicino all'ospedale. Ann, essendo partita per l'Indocina a studiare il buddismo. Probabilmente si farà buddista anche lei, osservò Diana. Sedemmo nella piccola veranda. Diana indossava un paio di cortissimi calzoncini bianchi e si era legato un asciugamano intorno al petto. Era decisa ad ottenere una magnifica abbronzatura e la sua pelle si arrossava a vista d'occhio nel sole caldissimo. Così Mark è partito, disse. È andato a vedere se prima o poi ci sarà possibile sposarci. Diana scoppiò in una risata. Non ha certo molte probabilità di riuscita, direi. Non lo credi davvero possibile? Vogliamo andare in Cina insieme a lavorare. Se fossi in te non ci spererei affatto. Comunque vedrai che sarà lui a cambiare idea. Oh, Diana, se tu fossi Mark rinunceresti a tante cose per sposarmi? No, certo, sarebbe davvero idiota, ma non temere, coniglietto mio, non riuscirai ad averlo. Diana sostiene che arriccio il naso come un coniglio quando rido. Ho solo paura che torni per dirmi che può sposarmi, risposi. Perché? Se dovrà rinunciare a me si sentirà prigioniero ed io sarò più che mai padrona della sua immaginazione. E se invece mi sposerà dovrò restituirlo al suo mondo per timore che mi abbandoni, non fisicamente, ma con parte della sua mente. Questa è la cosa più importante, poiché dopo un certo tempo una donna vale l'altra. Che diavolo stai blaterando? Si stupì Diana. Un momento sei cinica? E un momento dopo parli come un bambino in fasce. Ah, hai troppa immaginazione. Ecco il tuo guaio, troppa immaginazione. Non certo per quanto riguarda Mark. So di vedere molte persone non come sono realmente, bensì avvolte nei lucenti drappeggi dei miei sogni. Presto loro più sensibilità di quanto non posseggano ed è a mie spese che finisco col comprendere come la considerazione che hanno di sé sia assai inferiore a quella in cui li tenevo io. Ma con Mark è diverso. Con te non c'è proprio nulla da fare, sei sempre stata così. Fra poco ti sentirò dire che dovete rinunciare al vostro amore appunto perché vi amate. Forse, ma non ancora, non ancora. Non potrei sopportarlo ora, vedi? Soggiunsi, fissando il sole fino a che tutto divenne buio intorno a me. Né Mark né io sappiamo resistere alla nobiltà. È tutto qui, capisci? No, non capisco, dichiarò Diana, asciugandosi con decisione il sudore dal petto. Credo che ti manchi una rotella. Grazie al cielo io non ho il temperamento e non complico i miei rapporti con il prossimo. Alfred ed io, ad esempio, siamo semplici e non andiamo a cercare complicazioni, e Alfred ha una bella macchina, cosa che Mark non ha. Ma ora, per l'amor di Dio, smetti di versare lacrime nella tua tazza, coniglietto, e mangia una fetta di torta. Su carta rossa, punteggiata d'oro, la carta della buona fortuna, con pennellino e inchiostro cinese, scrissi un sortilegio per legare a me Mark Elliot. Al crepuscolo mi recai al tempio di Hollywood Street. Negli incensieri di peltro bruciai bastoncini d'incenso alle tranquille figure dorate drappeggiate in seta rossa sopra l'altare e gettai a terra i battocchi a forma di mezzaluna, prima 3 volte e poi 5. Infine scossi i bastoncini profumati nei loro cilindri e quelli che caddero fuori mi risultarono favorevoli. Aspettavo Mark. Egli non mi aveva detto che sarebbe ritornato a Hong Kong, ma sapevo che non poteva star lontano troppo a lungo perché Hong Kong è un ottimo centro di informazioni giornalistiche. Un giorno telefonai alla compagnia delle linee aeree e venni a sapere che il suo nome era nella lista dei passeggeri dell'aeroplano in arrivo quello stesso pomeriggio. Riuscii a farmi sostituire all'ospedale, sacrificando 2 mercoledì e mi precipitai all'aeroporto di Kai Tak, indossando la veste cinese azzurra che gli piaceva tanto. Il sole correva nel cielo aperto. Il vento spazzava il porto con i suoi indomiti cavalli bianchi. Le colline erano pervase da una dignitosa allegria. Il riso era ovunque, nei capannoni pieni di apparecchi sorridenti, nella sala d'aspetto dell'aeroporto, dove piloti, rumorosamente allegri, bevevano enormi boccali di birra ghiacciata. Tutto era divertente. La guerra, i discorsi sull'accrescersi della tensione mondiale, la lugubre radio annunciante esperimenti atomici, la notizia che anche la Russia possedeva la bomba atomica, gli inquietanti titoli dei giornali, gli addetti alla dogana che frugavano pro forma nelle valigie ammucchiate. «Guardate com'è divertente», dicevano le piccole onde, giocando a saltarello al pari di cuccioli scodinzolanti. «Guardate com'è gaia la vita», diceva un minuscolo yacht così assurdamente inclinato contro la schiena del mare che scoppiai in una risata cui fecero tosto eco i piloti. Poi il suo aereo apparve nel cielo, meteora d'argento danzante intorno al fumo rosa che sorgeva dalle colline, ed io non vidi né compresi più nulla finché egli non comparve sulla passerella in calzoncini e camicia bianca, la borsa da bagno sulla spalla sinistra e i capelli arruffati dal vento. Con gesto armonioso e spontaneo, non sapendo di essere osservato, si gettò indietro i capelli passandosi la mano sul capo, e allora distolsi lo sguardo perché non mi sembrava leale guardarlo mentre era ancora ignaro e inerme. Entrai nella sala d'aspetto e mi misi in piedi contro la parete per non sciupare la mia veste. Mark non poteva vedermi ed io non l'avrei cercato finché non avesse passato la visita doganale. Un piccolo pilota dal naso all'insù mi si avvicinò. «Poco fa mi avete chiesto di questo apparecchio, è arrivato?» «Grazie, lo so», risposi. Il suo sguardo mi disse quanto fosse stupito che io non mi precipitassi con gli altri fino alla barriera di legno della dogana per vederlo venire lentamente verso di me, dietro al suo bagaglio. Per agitare il braccio in segno di saluto, per sorridere il mio benvenuto, ma non avrei potuto farlo, non avrei mai potuto farlo. Appiattita contro la porta della toilette, lo vidi attraversare la sala della dogana, salutato da una graziosa hostess. Ecco, ora ero uscito nel sole, attendeva un taxi, lasciai la sala d'aspetto e mi avvicinai a lui da dietro, fermandomi a 5 passi di distanza. Passeggiava avanti e indietro e evidentemente non aspettava nessuno, cosicché, per un certo tempo, badando a rimanergli alle spalle, riuscii a non farmi scorgere. Poi, d'un tratto, mi accorsi che si era voltato e che stava guardandomi. Compresi immediatamente. Non c'era alcun sorriso sul suo volto quando mi disse cortesemente: «Su Yen, cara, quando sei arrivata?» «È parecchio tempo che ti sto seguendo», risposi in tono altrettanto cortese, come un cacciatore segue la sua preda. Passarono 6 giorni prima che Mark trovasse il coraggio di dirmi quello che entrambi già sapevamo. Oggi, ripensandoci, il nostro comportamento di allora mi stupisce, ma racconto le cose come avvennero veramente. Quel giorno all'aeroporto salimmo in un taxi, attraversammo il porto sul traghetto e prendemmo un altro taxi fino al Bay Hotel, dove Mark aveva prenotato una stanza, e per tutto il tragitto parlammo cortesemente, cerimoniosamente, delle dimensioni della luna, delle osservazioni di Sun Tunpo sui gentiluomini e i non gentiluomini, e su Baudelaire, sentendoci ben presto trasportati fuori dalla vita intorno a noi, nell'intimo vagabondaggio senza età, nei nostri spiriti affini, entro i libri vivi dei morti che amavamo. Notammo gli spruzzi d'autunno lungo la strada, assaporammo il colore mielato dello sherry centellinato sulla veranda e ci volgemmo l'uno verso l'altro per assorbire la bellezza del tramonto in un unico sguardo. Lo lasciai dopo un solo bicchierino di sherry, ma quella sera mi telefonò. «Ti aspetto alla casa della saggezza», disse. Non avevo creduto che sarebbe venuto a me tanto presto. Rapida scesi i gradini dell'obitorio col mio camice bianco e lo stetoscopio che mi batteva sul fianco, e lo incontrai mentre saliva dalla strada. Sentii la sua tristezza assalirmi quando mi gettai tra le sue braccia, impetuosa e ardente, ma dentro fredda e spietata perché gli avevano fatto del male. Non doveva aver dormito molto. Era troppo quieto, troppo teso. Amor mio, sussurrai stringendolo a me, baciando la sua camicia sulla spalla, un poco ebbra al suo tocco e al suo odore, e lo trascinai a sedere sulla nostra pietra, arginando la sua tristezza con tutte le mie forze, rendendo ogni conversazione impossibile finché egli si appoggiò al mio petto esausto, ma calmo, libero da ogni amarezza e solo un po' triste, come uno stagno tranquillo dopo la pioggia. Ero impaziente, quasi irritata, tutto era così futile perché già sapevo. Ma gli mostrai un viso lieto, strappai una foglia da un arboscello di alloro a portata di mano e gliene feci odorare la piccante fragranza. Accompagnandomi verso l'ospedale, mi disse: dovrei parlarti. Non c'è fretta, non ti ho chiesto nulla. Vorrei essere un tecnico cinese, allora potremmo andare in Cina e stare sempre insieme. Se tu fossi cinese potrei essere la tua concubina, ma dovremmo rimanere a Hong Kong perché le concubine sono permesse soltanto nelle colonie britanniche, a Hong Kong, a Singapore, non più in Cina. Davvero lo faresti? Egli chiese già divertito. Sapevo che ora avrebbe dormito. Il corpo è spietato, e troppo spesso lo spirito è alla sua mercé. Noi cambiamo col nostro corpo e i nostri pensieri e sentimenti sono modellati dalla fame, dal freddo e dal sonno. Il corpo di Mark avrebbe dormito. Per il momento non potevo chiedere di più. La sera dopo venne nella mia camera con Diana Kilton e bevemmo tutti un po' di rum che Diana aveva portato con sé e che ci fece tutti diventare un po' brilli. Mark passò a lungo la mano sul pavimento e sulla stuoia di paglia intrecciata. Sento profondamente le superfici e il loro ordito, disse. Ora capisco come i cinesi amino tenere in mano un pezzetto di giada per godere del sensuale piacere del contatto. Quante cose ho mancato di amare e quante mi sfuggiranno ancora, sempre. Le 3 sere successive venne ancora e sempre in compagnia di Diana, evidentemente impazientita da questo forzato chaperonage. Mi sai dire che stai aspettando? Mi chiese non appena Mark se ne fu andato. Perché non gli chiedi qual è la risposta? Oh no, non sarebbe giusto, esclamai virtuosamente, ma subito soggiunsi, voglio dire che non sarebbe la tattica migliore. Diana emise un grugnito di disprezzo e se ne andò. Giunse il sabato pomeriggio. Andammo a passeggiare sulle colline e ci sdraiammo al sole per leggere versi umoristici e la canzone dell'autunno di Ou Yang Siu. Poi, verso sera, scendemmo per il pendio, ammirando il meraviglioso tramonto cremisi che abbandonava il cielo a occidente. 2 farfalline lunari volavano nella fitta oscurità di una gordonia, le alucce verde pallido brillanti fra le nere foglie lucenti. Il cielo scavava buchi fra le nuvole e di quando in quando vi appariva la luna gialla che illuminava a sprazzi l'acqua della baia. Nella grande sala da pranzo dell'albergo ballavano parecchie coppie. Ci sedemmo ad ascoltare la carezza dell'acqua sulla sabbia, i clacson delle automobili e la voce burbera dei rospi maschi. L'orchestra riempiva la notte delle sue convenzionali note lamentose. Mark allineò 3 cognac di fronte a sé. Li bevve rapidamente l'uno dopo l'altro e infine mi disse che non avrebbe mai potuto essere libero, mai. Sedeva stringendo il suo ventaglio nero, la testa un po' china, bruscamente invaso da una profonda tristezza, più vicino alla disperazione di quanto lo fosse mai stato. Non vedo come avresti potuto aspettarti altro, dissi. Veramente? Certo, probabilmente anch'io avrei fatto lo stesso. Mi sarei rifiutata di prendere in considerazione la tua richiesta. È logico, ragionevole, è giusto. Guai se fossimo tutti pazzamente romantici. Tu potresti aver perduto la testa per una donnaccia. Io sono euroasiatica e la parola stessa è per molti indicatrice di pessima moralità. La gente non pensa mai alle parole, si limita a sentirle. Sono cinese e la buona borghesia non sposa ragazze cinesi. Inoltre in Cina le ragazze di buona famiglia non si sposano con stranieri. Soltanto le persone veramente superiori possono permettersi a volte di ignorare i pregiudizi comuni. Feci una pausa, contai fino a 15 e poi continuai. Mi conosci solo da 4 mesi e il fatto che noi ci amiamo non ha importanza per gli altri. Quello che è accaduto a noi non significa nulla per loro. Cerchiamo di vedere le cose dal punto di vista del tuo mondo, immedesimandoci nell'interpretazione che gli altri possono dare alle nostre ragioni. La gente vede sempre il peggio ed è convinta di conoscere il suo prossimo. È possibile che tu venga salvato dalla rovina e che un giorno tu sia grato a coloro che si sono opposti al tuo capriccio. Forse non dovrei dire tutto questo, forse dovrei essere triste, ma non sono fatta per le lacrime e la tragedia, e questo è il mio pensiero. E Mark mi aveva dato 6 giorni per pensarci. Egli rimase a lungo a fissare il suo ventaglio. È straordinario, disse infine, tranquillo come sempre. Credevo che ne avresti fatto una tragedia e per tutti questi giorni non ho osato dirti nulla. Non posso sopportare le scene tragiche e sentivo di aver commesso una grande ingiustizia nei tuoi riguardi, lasciandoti sperare che avrei potuto facilmente essere libero. Temevo che avremmo dovuto prendere molte decisioni e non vederci mai più, ma ora tutto sembra così staccato, direi quasi un po' banale e niente affatto tragico. Infatti, ammisi, è anche un po' noioso, ma secondo me tutte queste situazioni esageratamente emotive finiscono col diventare noiose, non trovi anche tu? E passammo a discutere di Flaubert. Ah, dato che non c'è tragedia, vuoi rimanere con me nella mia stanza per un poco? Mi chiese Marc al termine del nostro delizioso scambio di idee sulla letteratura francese. Certo, risposi. Entrammo insieme nell'albergo, passando davanti a ballerini che giravano lentamente e ad alcuni inglesi che ci fissarono con evidente riprovazione, ma a noi non importava più di nulla, perché a nessuno dei due era più possibile tornare indietro, meno che mai avrei badato ai pettegolezzi della gente e alla curiosità: chi è quella cinese che Mark Elliot ha pescato a Hong Kong? Non mi importava più nulla di nulla.